Domani ti racconto un paio di cose, però ti voglio accennare questa. Mi stai sentendo bene adesso? Sì, dimmi. Ti voglio accennare a una cosa. È successo questo, che quando io sono uscito per venire a prendere te, a un certo punto dice che la moglie di la 50 di Barracuda si è messa a fare la splendida, come ha fatto ieri, a me piacciono i camionisti, queste cose qua. E sentendosi lusingato, a quanto ho capito, Vulcano non ha gradito l'entrata di Pomponi, che ha detto, beh, io non ti piaccio. E dice, cosa mi piaci tu, cosa gli piaci, cosa le piaci tu, che sei, c'hai gli occhi storti, che sei basso, che c'hai la pelle come ce l'hai, una cosa del genere. Almeno così mi ha detto ieri Pomponio, perché io poi l'ho chiamato. Siccome ho sentito questa entrata che ha fatto chiedendogli scusa Vulcano a Pomponio, e lui l'ha trattato in merda, proprio a catta in faccia. Antonello a Luigi. K di Roggero, ma proprio male, gli ha detto, no guarda, io le tue scuse non le gradisco, non so che cosa, dice che non capiti mai più una cosa del genere, perché a me piace scherzare, sì, però non arrivare a questi livelli, mi rimba davanti, cazzo, Luigi era mortificato. Allora io ho telefonato, ho fatto una bassa a cosa a Antonello, chiedendogli spiegazioni, perché non avevo capito, e mi ha raccontato questa storia qua. Poveraccio, cazzo, queste cose non vanno bene, però non mi permetto io che ci scherza un bel con Antonello, cioè sta diventando veramente una cosa esagerata adesso, e prima Antonio che entra peccandosi qui e là e minacciando la gente, e non va bene, e si è chiusa così, adesso anche Luigi contro Antonello, con queste frasi così non omogenee. Quello è così, cioè è una malattia, cioè invece di assecondarlo le buttiamo sopra ancora del fuoco, no, te l'ho detto Anto, te l'ho detto, non ci riusciremo mai a dettare delle regole e delle leggi su Canale 10, perché la gente non ne frega niente, io ci ho provato prima di te e mi hanno tutti quanti distrutto, capito? Mi hanno tutti distrutto, mi hanno detto che se devo comandare comando a casa mia, loro pagano una concessione, parlano come vogliono e dove vogliono, capito? Non ce n'è legge che ne impone di entrare nel canale 10 e fare quello che vogliono. Questo sappilo perché è così, te lo dico con esperienza, te lo dico perché io ci sono già passato e io ho bisticciato con la gente per far sì che certe persone rimanessero al di fuori del canale 10, e invece no, non è possibile nel modo più assoluto. Sì, ma quello che io non mi aspettavo certamente è che Antonello ieri sera, quando ho detto appunto la possibilità di mettere delle regole sul canale 10, si è comportato un po' da idiota, perché ha detto io non lo so, no, io non sono d'accordo. E gli ho detto perché non sei d'accordo? Gli ho detto guarda che le regole sono quelle del buon senso, che sono quelle di evitare un linguaggio scurrile, e in secondo luogo quello di evitare di utilizzare degli eco esagerati. Questo perché c'era anche Gianni dopo il room, quindi capito, dicendo una cosa del genere stavo colpendo soprattutto lui, che in quel momento è entrato per chiedere un controllo. Gli ho detto perché la modulazione deve essere omogenea, gli ho detto va bene un po' di amplificazione, però l'eccesso, gli ho detto, mette nella condizione le persone che stanno facendo un QSO di essere infastidite. Gli ho detto poi, ho detto il canale 10 è un canale che l'associazione ha preso come punto di riferimento, non può dettare leggi, ci mancherebbe, però detta quantomeno, chiede quantomeno la cortesia che venga utilizzato in questo modo, poi alle persone avere una certa intelligenza e dare retta o meno, visto che sono regole di buon senso. Sparito? Come? Che sei sparito? Sono regole? Sono regole, ti stavo dicendo che dettate dal buon senso, ah, perché va in limitazione questa cosa, in limitazione di modulazione. Ho detto sono regole di cosa, di buon senso, se le vogliono seguire bene, se no io comunque non modulo più con persone che non mi rispettano. E io non sono d'accordo, gli stavo per dire a quanto ne vattene a fanculo. Gliel'hai detto in radio? No, non gliel'ho detto, gli ho detto va bene Antonio, è bello. La cosa di pensarla in maniera diversa esalta l'eterogeneità della cosa, quindi io rispetto quello che stai dicendo tu, vabbè, vedremo. Ed è entrato Gianni, a che ora chiedere un controllo? È entrato Gianni, tu non c'eri ancora, fai che se fossero le 8, dai. Canale 10, no, sempre domanda controlli perché non c'è più nessuno che le dà controlli. prima te l'ho detto. Poi ieri sera è successo anche un'altra cosa. Ieri sera a un certo punto coso, Leoncino, gli butti un euro e ti segue tipo cane. Ma non hai capito, quando sono entrato io mi ha preso Barracuda, tu non c'eri, mi ha detto ma cosa c'è qua, ormai non ti stai sentendo che ti giuro, no io ci sono, però non mi piacciono le persone salta, capito? Quello è un'altra di quelle persone che ascolta nel canale 10, parla con noi, sente quello che diciamo, poi va e riferisce tutto a Gianni e ad Antonio, e questo l'ho già visto e constatato con le mie mani, capito? Perché escono assieme, non mi interessa perché noi non parliamo di cose che possono offendere nessuno, però anche lui è uno di quelli brinca, capito? E già me ne sta scendendo le balle, siccome Jeff a me mi conosce molto bene, a differenza di altri, mi conosce molto, molto bene come sono fatto, io glielo ho fatto capire, se lo vuole capire così, se non lo vuole capire io a Giuseppe, come lo trovo? Dico, fa una cosa, non vi tra più rubare l'edificio qui, io vado via a dire. E morale, allora sappi che ieri è entrato, gli devono aver regalato un lineare, perché era lì che stava rompendo le balle, se gli ha detto guarda non so come ringraziarvi, grazie tutti quanti, io siamo contenti che meno male stai uscendo bene, finalmente stai uscendo bene, quindi gli devono aver regalato un linearetto oltre che il baracchino, perché il baracchino gliel'ha regalato, diciamo, amico il suo compare. Tu lo sai che quello da Balai con la macchina, no? Da Balai con la macchina, ho visto la lepre correndo a punta scorro. E appunto. Morale stavo uscendo bene, stavo uscendo molto bene. E niente, lui era lì che si profondeva in ringraziamenti. E loro, non c'è problema. Così almeno quello lì gli rode il culo mio, una cosa del genere hanno detto. Lui riferito a me? No, perché me l'ha chiesto un sacco di volte se eravamo un baracchino, l'ho mai detto sempre di no. Capito? Quello lì era il culo, a me me lo ricuro, ne ho da vendere io baracchini, ma baracchini però non mi ho detto. Oh, questo l'ha detto Pierpaolo però, Ah, ha detto lui, caspita. Ieri sera qua ti stavo dicendo in chiusura di QSO loro. A un certo punto stavano facendo un discorso, dice finalmente esci bene Giuseppe, e dice perché grazie a compare era questo qua, questo amico di suo fratello che le ha regalato questo baracchino, e realmente sta uscendo bene finalmente. Dopodiché a un certo punto dice poi con quella cosa che ti abbiamo dato, sì ma infatti vi ringrazio, non so come ringraziarvi, e Gianni a futedini, pensa alla salute, quell'altro non ti preoccupare, quell'altro, e sono contento finalmente, sono davvero contento per te. E per farla conclusare, così almeno quello lì gli rode un po' cane di rugurumi. Già le rode allora il culo, sì, non certo, ma io manco ne sapevo, figurati. Io l'ho sentito ieri sera molto cupo rispetto a come sta uscendo, usciva normalmente. Mi ha chiesto il controllo e gli ho detto stai uscendo cupo, non me l'ha fottuto da me. Ti ripeto, ribadisco che se non c'entra, mi vado un piadere. Capito? Ma proprio me lo fa grande il favore, perché non hanno dialogo, non hanno niente, entra lì per stare sempre lamentandosi, lamentoso, quello l'ha bruciato, non fa questo di niente, come quell'altro di Polottore, cioè che sta iniziando ad essere pesante con questi controlli, anche ieri ha visto la Giuseppe Amato, stavo uscendo con 440, che poi ho chiamato un altro, io a Polottore, ho detto no, sto uscendo con 440, però anziché l'MC60 sto usando l'MC85. Ma non ti innamori, ma perché non me ne ero accorto? Cosa gli ho detto io? Tu hai settato il settaggio, ma quale settaggio? Ah? Lui ha fatto il settaggio dell'FT1000. Non ci sono riuscito io al 950, ho dovuto chiedere aiuto a Marco Scorpio, che è uno dei più grandi radioamatori che c'è a Sassari, e l'abbiamo fatto via PC. Figurati se lui riesce, che non sa manco dove mettere le mani in quelle radio, perché non le ha mai conosciute a differenza mia. Capito? Figurati tu. Comunque tu stai esagerando, te la pigli davvero per queste cagate, ne dici in tutti i colori. Ma cazzo, ma segui una linea, cioè piglia il barugulo, digli sì, tutto a posto, sei un grande, cioè questo significa che tu alle persone ci tieni, perché io se vedo uno che sta accelerando e sta andando contro il muro e non me ne frega niente, anzi gli voglio male, gli dico accelera, accelera, tu invece gli stai dicendo frena, frena, gli stai dicendo la verità, ma futtizzini, digli che vanno bene, benissimo. Io sono fatto così, non ci riesco, la mia esperienza in radio è talmente grande che io mi hanno insegnato a dire le cose sempre come stanno. Se io non sto uscendo male, io non posso dirti stai uscendo bene, ah sì, a posto, perfetto, qui e là. Non ci riesco, non sei più forte di me. Forse perché io ho sempre curato la radio, ho sempre curato tutto, quindi, capito, non lo so. Lui però in questo periodo c'è un qualcosa che non va bene e quindi io non riuscendo a capire cosa c'ha non me ne frega niente, però non puoi entrare in radio e dirmi ho fatto settaccio all'FT1000, ma stai scherzando, non sono riuscito a fare la 950 io che c'ha 4 menu, 1000 funzioni e lui senza conoscere né niente con l'aiuto al telefono di chi? Al telefono. Ma non dire male per favore, che non sono nato ieri, dai. Ma io non è che sono fatto diversamente da te, nel senso che io a una persona glielo do volentieri un controllo, dopodiché se avessi avuto l'esperienza gli avrei dato anche un suggerimento, ma se dopo il secondo suggerimento fai esattamente il contrario di quello che ti dico di fare, affanculo, cioè allora ti dico vabbè come stai uscendo? Bene, faccami i avvini, stai uscendo benissimo. Il giorno che si brucia la radio, che uscirà a merda, va bene lo stesso, tutto bene, qua stai arrivando bene, come stai arrivando? Guarda, metti la colla, non hai margini di miglioramento, sei un campione del mondo. Ma poi si vanta, ho capito, poi si vanta, invece quando tu gli dici no, stai uscendo male, devi cercare di fare questi accorgimenti, allora capiscono che non hanno fatto le cose fatte bene. Tutto lì, Anto, capito? Il mio problema rimane quello, che io ho sempre parlato in faccia, qualcuno dà fastidio, come Giuseppe, credo che ieri si sia offeso, ma ti ripeto, non me ne ha fatti manco parlando in camera delle palle a me. Ma claro, il problema è che ti stai facendo tutta questa schiera di amici inutili, per combattere una battaglia contro quei pedizzoni. Una persona che ti sente parlare così, chiaramente si schiera dalla loro, tu dirai, cazzi innaffutti. Però non è bello, capito? Io piuttosto preferirei tenerli neutrali queste persone piuttosto che farle passare al nemico. Ma non credo, certo che lo si vede con tutti, però è un brinca brinca, è una persona che va dove sa che può prendere e avere. Siccome da me non ha niente, non gli ha mai dato niente, non me l'ha fatto nulla. Anche perché non me ne frega avere dei collegamenti con lui, io lo conosco di persona da tanti anni, non ci sono mai uscito, non abbiamo mai bevuto assieme, anche se lui dice in radio che ti ricordi, sono tutte palle perché non l'ho mai frequentato. Lui, io frequentavo a Torino, che era un suo amico a distanza, e Torino quando raccontava le cose lui poi ne faceva una tragedia, a parte il fatto che c'ha la bocca più grande del culo, scusando te, perché tutto quello che le dici è una fogna, va e lo dici agli altri, quindi è meglio stare molto attenti quando si parla, quando si dicono le cose, o ci spostiamo qua, perché va e riferisce tutto, capito? Papà, scusa un attimino che c'è il telefono e sta squillando. Scusami, una bassa. Sì, che sia una persona poco attendibile, poco affidabile, l'ho capito. Ma ascolta, su questa frequenza siamo tranquilli. Sì, perché? Perché ogni tanto sento una scarica, eh. Anch'io, sono scariche atmosferiche. Purtroppo le VHF sono così. Ma non me ne frega niente a me, mi ha capito, di quelli che stanno ascoltando, non... Anto, io non devo dare niente a nessuno, né soldi, né amicizia, io oramai sono a circuito chiuso. Quello che ho me lo sono conquistato per la mia buona reputazione, buona personalità e buona fede, come si dice in italiano, quindi a me di loro non mi frega niente, posso neanche ascoltare, io quello che devo dire lo dico in radio, e lo dico anche in persona, a me non me ne frega niente proprio, è come che non esistono, l'importante è che non vengano in continuazione a cercarmi, perché non sto cercando nessuno. A Giuseppe l'ho detto anche ieri, quindi non me ne frega nulla, se si è offeso se la cambia, e se io quello che devo dire dico, a chi non le piace, ci sono altre 39 canali, va negli altri 39 canali, ti ripeto, se non c'entra mi fa un favore. Cava Roger, no, dal punto di vista affidabilità è, come si dice, affidabile quanto un tossicodipendente in crisi di astinenza, la stessa affidabilità. Ma fra l'altro guarda, ero disponibile anche a regalargli un'antenna, e a un certo punto mi ha detto che ero una persona senza parola, gli ho detto perché? Perché dice che venivi e mi portavi l'antenna, no, gli ho detto io ti davo un'antenna. Dopodiché cosa vuoi, che venga anche a casa tua, te la piazzi, ti testi l'apparato e una fettina di culo, poi dove te la metti, in un panino di quelli Carrajau? Ho detto vai, esco, se vuoi venire a prendertela, l'antenna è sempre qua. Meno male, non è venuto, perché mi sarebbe roso il culo dargliela comunque. Che sia un po' così, che sia un personaggio un po' particolare, me ne sono reso conto. Poi non lo conosco abbastanza bene, però è un po' travalantello il ragazzo. Era anni che non entravo in radio, anni. Mi ha visto un sacco di volte, faccio, non ce l'hai un baracchino, non ce l'hai, qui, l'altro, no, io non c'ho niente. Perché volevo proprio che non entrasse, capito? Se no gli avrei anche regalato un baracchino. Non me ne frega assolutamente niente. Non sono di quelli. Ne hanno preso persone che valgono la metà di lui. Quindi figurati se non l'avrei data a lui. Poi evidentemente qualcuno gli ha regalato, quindi si è messo una telemacchina, è iniziato a entrare qui e là, ma ripeto, a me non mi ha mai fatto niente, ma non è amico mio, quindi no, non me ne ha fatto nulla, lo conosco a 30 anni, ma ti ripeto, non abbiamo mai giocato a pallina assieme, questo sia ben chiaro, in modo che lo sappi. Va bene. Ok Alto, dai, vado a farmi il riposino, spero anche tu parlare con Chiara di quella per domani, e mi raccomando, venite a casa, stiamo un po' assieme, facciamo due chiacchiere, facciamo niente di particolare, giusto per stare assieme, niente, dai, poi sentiamo il radio, adesso le 7, le 8, l'ora che volete, non c'è problema. Capito? Quindi dite a Chiara di liberarsi da tutti gli impegni, se ne avete altri dici non mi bruciare perché hai perso. Ogni minaccia, non ti preoccupare. Dai, ci sentiamo dopo se coincide. Io sono già in 144, figurati se stavo aspettando a te. Maledetto, non lo sai, c'ho le radio qua, quindi letto non ce n'è però. Lascia fare, mi dai un po', dai. Sentiamo stasera, sono a casa, non c'è problema. Dopo più tardi vedo di fare di tutto per tirare giù l'antenna, perché stai arrivando malissimo. A volte ti sento, a volte non ti sento, invece con quella siamo sicuri che ti sento. Mettiamo potenza bassa e non c'è problema. Ci sentiamo dopo sul canale 10. Ciao, salutami a Chiara. Ciao. Sì.